Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Flavio, amici sportivi, buongiorno a tutti. Oggi, dopo lungo e insistito corteggiamento che neanche Claudia Schiffer o chi volete voi, siamo riusciti a far tornare Davide Pessina. Ciao Davide. Ciao, ciao Carlo, buongiorno a tutti, buongiorno coach. Ciao Davide. Coach, si era in controllo, mani sulla partita, sensazioni di vittoria, la faccia di Ettore Messina che dice adesso cosa faccio, non riesco più a vincere questa gara, e invece, mossa della disperazione, le stelle stanno a guardare e guarda cosa combinano Yul e Reyes. Ma guarda, la cosa significante secondo me è che ovviamente è una squadra comprata a fior di soldi, di euro, e invece due che sono... pilastri del Real Madrid da diversi anni, come Felipe Reyes e Sergio Llull, hanno vinto la partita loro, cioè quelli che sono Real da una vita, quindi complimenti a loro. E Ettore Messina, bravo lui a pescare questi due jolly dalla mazza e avere l'intelligenza di lasciarli in campo, perché sta niente Kaukinis, niente Lavrinovic alla fine, niente Garbajosa. È andato con chi vinceva la partita, anche Tomic, bisogna mettere lui, ma i due di lunga milizia Real Madrid, Reyes e Jules, hanno vinto la partita. Certo Davide, ogni volta che Jules vede una squadra italiana la incorna. Perché... Sì, però è vero che secondo me sta diventando sempre più decisivo nell'economia, sì, del Real. Già da un po' è un giocatore che esce alla panchina, cambia il ritmo, insomma mi sembra quasi più imprescindibile lui di tanti altri nomi che abbiamo fatto. Poi ieri ha fatto una partita pazzesca. Sì. Compreso quell'ultimo canestro. Sì. Coach, volevo chiederti però, a parte Yul e Felipe Reyes, la difesa del Real Madrid è molto messiniana nel suo sviluppo. Io credo che Siena abbia subito quello che normalmente subiscono le altre squadre in Italia quando giocano contro Siena, cioè una difesa talmente fisica da risultare asfissiante. Lì si è visto veramente la mentalità di Messina sulla panchina del Real. Non so se sei d'accordo. Assolutamente. La cosa quando tu vai contro un Ettore Messina o un allenatore come Obradovic, anche se eliminato pure lui, o adesso Xavi Pasquale, sono difese che non è che difendono per un quarto, due quarti, tre quarti, fanno quattro quarti completi, 40 minuti, e magari tu resisti per tre quarti, ma guarda, quel quarto quarto, o anche gli ultimi 5 minuti, quando devi avere ancora dell'energia, infatti io temevo ieri sera una stanchezza di McIntyre e compagnia, tu devi avere una resistenza fisica, tecnica, psicologica, mentale, tutto quello che vuoi dire, perché loro non volano per un secondo, è come una piovra che con le ventose che ti tolgono ossigeno e sangue allo stesso tempo, e alla fine non hai più opzione. Guarda caso a Romain Sato, un primo tempo, primi due quarti, 17 punti, finito con 17 punti se non sbaglio, quindi cioè, loro dicono ok, dobbiamo eliminare Romain Sato e lo fanno, cioè, proprio, eppure non avendo un super difensore, hanno sacrificato Jaric su di lui. Ovviamente i milanesi qui sono fuori dal ristorante. Stai creando un ingorgo, coach. Yeah, con poca pazienza i milanesi, comunque. Però la difesa Messina è veramente una piovra che veramente piano non hai più sangue, non hai più ossigeno. Ma tu non dici sempre che si vince con l'attacco? Guarda, è chiaro che la difesa fa parte di questo qui, però se l'attacco non funziona, garantisco che la difesa non funziona, perché l'attacco dà fiducia. Hai toccato la palla, hai fatto il canestro e dopo sei gasato, sei pieno di fiducia, hai energia, entusiasmo anche per la difesa. Però se tu fallisci in attacco, sei deconcentrato in difesa, perdi energia. Quindi ti danno due punti ogni volta che segna, qualche volta tre, qualche volta uno, hai capito? Però bisogna fare punti, bisogna segnare, bisogna attaccare. È chiaro che la difesa è importante, però difesa, come sa Pessina che ha giocato mille anni in Serie A, è una questione di mentalità, di energia, di impegno, di lavoro, e poi magari anche la tecnica. Ma tutta questa preparazione, secondo me, passa in secondo piano. Bisogna difendere con energia. Se tu metti l'energia, vedrai che il resto va a posto. Io non credo che Reyes sia un super difensore, io non credo che Jules sia un super difensore, ma ieri hanno difeso. Sì, Davide, ti do anche un dato: con in Eurolega, con gli avversari sotto gli 80 punti, il Real Madrid ha vinto 11 partite perdendone 0, con gli avversari sopra gli 80 punti 0-4. Eh beh, direi che le cifre in questo caso sono abbastanza chiare. Beh, chiaramente le squadre di Messina sono così, impostano una grande difesa di squadra, anche con cambi sistematici come ieri, soprattutto grande pressione sulla palla. Siena non è riuscita a far circolare il pallone come spesso fa, soprattutto nel secondo tempo, e come succede in queste situazioni si accontenta un po' del tiro da tre punti. Se entra bene, se non entra è un problema. Non mi aspettavo, non so tu coach, una partita di questo tipo da parte di Terrell McIntyre, ma non per tanto per gli errori al tiro, perché ha tirato male, quanto una questione di scelte, di gestione dei momenti chiave della partita. Lui ha avuto anche qualche palla persa sanguinosa lì, proprio assolutamente. Come dicevi tu però, Carlo, anche Davide, anche Flavio, Eurolega, quando si gioca a questo livello le partite sono fisiche, sono durissime. Io ieri in telecronica ho detto nervoso, ma è una parola che non mi piace. Sono partite stressanti, questa è la parola, cioè proprio ti tengono sotto stress. Alla fine hai una stanchezza mentale per l'impegno mentale che hai messo, cioè proprio ogni azione, ok, siamo in difesa, bisogna concentrarsi, ok, adesso siamo in attacco, bisogna concentrarsi, adesso siamo in difesa, è un continuo, non puoi dire, oh, adesso tiro un sospiro perché sono in difesa o sono in attacco. No, se fai una pausa sei finito, e questa è la cosa di queste partite qua. È chiaro che magari ci sono squadre come, non so, Siena in Italia che vince tutte le partite per 35 punti, ma anche Maccabi Tel Aviv magari paga questo, anche se in Israele quest'anno hanno perso qualche partita. Siena avrebbe bisogno, secondo me, di partite molto stressanti anche nel campionato italiano, che non ce l'hanno adesso. Cioè, quando noi, non per citare noi, abbiamo vinto l'87, lo dico sempre, noi potevamo solamente ringraziare le altre squadre. Davide giocava a Torino. Torino quell'anno lì ci ha battuto due volte su due. C'era una squadra che Torino neanche ha fatto i playoff, ma noi, la grande squadra del Grand Slam, si battono due volte. Ma questa è competizione, non parliamo Virtus Bologna, non parliamo di Scavolini Peso, Varese, Cantù, Roma, tutte le altre squadre. Questa, eravamo stressati, ma sì, anche diciamo collaudati, testati, come si dice in America. Avevamo fatto test dopo test dopo test, eravamo abituati a queste partite durissime contro avversari durissime. Siena non ha questo lusso nel campionato italiano. Vincono per 35 e abbastanza in carrozza, anche se lavorano bene, ma secondo me pagano questo fatto. E anche in Coppa Italia, poi ne parliamo con Davide Pessina, strada verso la Coppa quest'anno assolutamente dritta e senza ostacoli. Grazie coach, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao, coach. Ciao Davide, buonasera. Ciao coach. Ciao. Come non avete fatto i playoff quell'anno lì? Adesso devo pensarci, io secondo me l'abbiamo fatti, però secondo te li avete fatti. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Davide Pessina qui con noi. Davide, parlavamo di T-Mac, Terrell McIntyre. Ieri una partita che non ti aspetti dal più forte playmaker che gioca sui campi d'Europa. Sì, sicuramente sì, un po' in difficoltà, anche perché comunque, soprattutto in Eurolega, trova difese molto adeguate su di lui, anche fisiche, glielo fanno stancare, alla fine perde lucidità. Sono più le palle perse che i tiri sbagliati, in effetti, secondo me, che pesano un po' nell'economia della sua partita. Però in quelle situazioni in cui, ripeto, la difesa gli mette grande pressione, tolgono le prime linee di passaggio in uscita da pick and roll, o comunque dalle mani di McIntyre, diventa un problema proprio di fluidità per Siena. Come la vedi onestamente Siena adesso nel suo cammino? Adesso ha trasferta a Tel Aviv, che deve vincere per forza, e sarà la giornata chiave. No, e poi vincere in casa, ribaltando la differenza punti col... Non è facilissimo. No, è molto difficile, si sapeva, il girone è molto difficile. Sono quattro squadre quasi allo stesso livello, perché anche l'Efes, insomma, è una squadra che ha avuto alti e bassi, però ha tanto talento, un roster profondissimo. Il Maccabi è sempre il Maccabi, adesso deve andare a giocare là e non è facile. E purtroppo si è complicata molto la vita, non solo con la sconfitta, ma con la differenza punti. Alla fine può pesare. Io credo che però Siena abbia la possibilità di vincere tutte e due le partite e poi vedere come andrà nell'incrocio dopo. Sì. Davide, Panathinaikos fuori praticamente. La notizia del giorno, questa, Flavio. Sorpresa o mica tanto? Dico questo perché comunque Obradovic credo sia uno di quegli allenatori che a un certo punto i giocatori non sopportino più, passami il termine. Ecco, si parla anche di ciclo fine dell'impero. Esatto, che va a chiudersi per il Panathinaikos. Io credo che Panathinaikos si trovi sì in questa situazione a dover fare delle scelte. Sicuramente un po' il ciclo si è chiuso, però è chiaramente in grado di riaprirlo direi molto, molto velocemente. Francamente sorprendente, sì, se non scioccante, però sorprendente, perché comunque il Panathinaikos aveva avuto una stagione abbastanza regolare, l'Olympiakos in Grecia sta giocando meglio, ha vinto anche la Coppa di Grecia e soprattutto dimostra più solidità, però insomma fuori alle top 16 è sorprendente. Senza voler essere epocali a tutti i costi, anche il vecchio Saronassia Sikiericius mi sembra un po' sul viale del tramonto. Ieri 10 minuti 0 su un al tiro, meno 2 di valutazione. Un cazziatone che dovevi vederlo da Obradovic, rosso come le sedie del nostro studio, rosso come un pomodoro. Che gli ha mangiato la faccia, sì. Gli urla a 2 mm dalla faccia. Sì, non so se sia sul viale del tramonto o secondo me è finita la sua esperienza lì. Ecco, mettiamola così, probabilmente l'anno prossimo lo vedremo da qualche altra parte. Lui poi è un giocatore particolare, ha bisogno di sentirsi secondo me anche emotivamente al centro del progetto. Ripeto, qui credo che insomma adesso ad Atene faranno delle scelte anche abbastanza drastiche per l'anno prossimo, però sarà sempre una di quelle che saranno a lottare fino in fondo anche già dall'anno prossimo. Sì, queste giornate delle Top 16 hanno detto che le spagnole della borghesia, della buona borghesia tipo Tau e Malaga, sono, diciamo che non fanno più tanta paura, sì. Mi sembra una notizia, e c'è il Procon che si è infilato nel buco e tra le prime 8 d'Europa in maniera assolutamente sorprendente. Come il Partizan, è stato bravissimo, il Partizan sì. Per ora ha battuto il Barcellona in casa, insomma sono come sempre qualche sorpresa si infila, il Partizan ormai non è più tanto una sorpresa perché ogni anno per quanto continua a perdere giocatori rimane sempre ad altissimo livello, il Procon è quello che non ti aspetti, insomma visto anche nel girone di Milano, una buona squadra che però ha trovato grandi equilibri adesso in questo momento la più forte in assoluto mi sembra il Barcellona, sì. Poi non so se riuscirà a vincerla perché c'è sempre quell'incognita col Barcellona, però direi che l'unica che secondo me in questo momento può competere è l'Olympiakos, le altre mi sembrano un po' indietro. Assolutamente imbattibile il Barcellona dall'inizio della stagione fin qui, si diceva vediamo come vanno le cose andando avanti, però mi sembra che di cali di tensione non se ne vedano. Primo ascoltatore di oggi da Brescia, 800 24 00 24, numero verde. Drago, buongiorno. Buongiorno, un grandissimo saluto in studio, sono Drago da Brescia ma sono un serbo. Sì. Volevo chiedere due domande se possibile, come vedete il Partizan di Belgrado fino alla fine in Coppa e cosa pensate di Gioielli del Partizan, se sono ancora competibili in Europa? Grazie. Con 3 vinte e una persa si può pensare solo il meglio possibile. Io faccio il tifo, direi. Io faccio il tifo non solo perché Sergio Giorgiovic è un mio amico, viene da lì. Ieri ricordiamo. Perché Danilovic è il presidente del partito. Esatto. Faccio il tifo per loro perché mi piace da impazzire la loro filosofia, ma è una banalità questa. 79-76 ieri in casa contro il Marussi. Beh, sono ormai ad altissimo livello da tanti anni, continuano nella loro politica giusta di costruire giocatori, di poi come dire monetizzare cedendoli e continuare sempre a rimanere ad altissimo livello, questa è la cosa difficile, nel senso che magari riesce a creare qualche giocatore però poi quando va via, invece loro sono sempre bravi, io li vedo bene anche nel prosieguo. È chiaro che secondo me in questo punto dovrebbero poter passare ai quarti di finale e poi lì probabilmente da secondi. Dipende chi trovi. Cosa, ma com'è giocare in quel posto lì al Pionier di Belgrado? È tosto, niente da dire, però almeno io le volte che sono andato sempre molto corretto, nel senso che li senti, sono molto presenti, molto caldi, molto rumorosi, ma corretti. Questo palazzetto straordinario. Sì, tu citavi Sasha Giorgiovic, c'è ancora in mente la sua partita di addio, che è stata una cosa pazzesca, cioè veramente meravigliosa. E poi secondo me, come l'idea che ho sempre avuto anche quando giocavo è che non è tanto per la squadra in trasferta, nel senso che soprattutto con le squadre esperte in qualche modo riescono a isolarsi dal rumore che c'è, ma sono veramente importanti per la squadra di casa, soprattutto se è giovane. Insomma, l'impatto che ha questo pubblico sul Partizan secondo me è notevole. Senti, invece l'impatto di sera sulla Coppa Italia, dicevo prima per arrivare a temi interni, senza ostacoli, a differenza delle ultime edizioni dove comunque Siena magari un piccolo momento di piccolo grande momento di difficoltà lo attraversava, quest'anno proprio niente. Sì. Beh, diciamo che forse fino all'anno scorso, non avendola mai vinta, c'era anche questa pressione superiore. Quest'anno a me è sembrata sì totalmente in controllo, senza nemmeno, come dire, cercando anche di controllare le energie, proprio perché insomma avevamo visto anche l'anno scorso, erano poi andati a Mosca, avevamo perso male, insomma 3 partite in 4 giorni si sentono, addirittura Siena credo in 3 giorni perché la semifinale l'ha fatta il secondo giorno. per cui insomma hanno cercato di gestire le energie e sono riusciti anche abbastanza bene. Finale con la Virtus si è avvicinata più volte, però la sensazione era che insomma Siena fosse sempre abbastanza in controllo. Ecco, tra l'altro mi pare di poter dire anche pallacanestro non irresistibile in questa kermesse, no, proprio dal punto di vista qualitativo, se vogliamo. Sì, abbastanza, sì, a parte qualche eccezione, ripeto, Siena che ha controllato, la Virtus che secondo me ha giocato bene, molto bene, soprattutto le prime due, ma anche con Siena tutto sommato è rimasta in partita, ha fatto il suo massimo, per il resto sì, non, anche secondo me il primo tempo di Montegranaro è stato giocato bene, poi chiaramente con Siena insomma ce n'era troppo poco, però il resto sì, anche qualche brutta partita, qualche sì, niente di particolarmente nuovo, nessuno, insomma direi che si chiude con la vittoria scontata di Siena, una Final Eight tutto sommato mi viene da dire di nuovo scontata, non so come dire, in tutto e per tutto. Io sono un grande lettore di facce nello sport, credo nell'ufficio facce, ti ricordi di Beppe Viola, no? Ebbene, mi è rimasto impresso un particolare vedendo in televisione la partita di domenica, la finale a 3:30 dalla fine, quindi un sacco di tempo ancora da giocare, -8 per la Virtus, hanno inquadrato la panchina della Virtus, su quelle facce non ho visto uno crederci. Bah sì, a me tutto sommato è sembrato che loro mi sembra un atteggiamento generale di affrontano Siena, questo sì. Sì, questo sì, anche con discorsi più o meno ufficiali, il senso sembra siamo qui, tanto poi prima o poi c'è Siena e ci passa sopra. Questo sì, credo che in questo è stata bravissima Siena, nel senso che talmente sta dominando negli ultimi anni che ti distrugge prima di tutto mentalmente, nel senso che non ti dà la possibilità di pensare di poterla battere. Mi viene in mente una frase di Pat Riley riguardo a Michael Jordan, una sfida a New York-Chicago ai playoff, e alla fine perso per l'ennesima volta, vinto sempre Chicago, e Pat Riley ha detto noi partiamo già battuti, perché ormai lui è talmente più forte che insomma mentalmente ti batte prima di cominciare. Questa mi sembra un po' che sia quello che succede nel nostro campionato, merito di Siena, colpa anche delle altre. Altro ascoltatore, Milano, mio omonimo Carlo, buongiorno. Pronto? Eccoci! Buongiorno a voi! Buongiorno, dica! Un saluto a Davide, di cui ero tifoso quando giocava a basket. Anch'io, Carlo, grazie! E soprattutto, proprio tornando al discorso che ha affrontato Dan Peterson, mi ricordo che Davide veniva criticato talvolta, adesso sarebbe uno dei primi 5 giocatori della Serie A. Grazie, troppo buono! No, ma è vero! Volevo rilacciare a quello che ha detto il coach. Ha perfettamente ragione, cioè io sono appassionato e tifoso dell'Olimpia fin dagli anni 80, e il livello medio delle squadre nostre in campionato è sceso a livello pauroso, e quindi Siena paga. Ricordo solo una cosa, che probabilmente Davide si ricorda benissimo, vi ricordo Milano per esempio contro Udine vinceva sempre, però con Udine giocava un certo Sven Netter, vi ricordate? Sì, ce lo ricordiamo. Ecco, voglio dire che comunque Siena in campionato, io l'anno scorso ho seguito la finale, forse 2 minuti in 3 partite ho avuto la sensazione che potevamo vincerne una. È evidente che quando vanno fuori degli altri problemi, la competitività purtroppo nel nostro campionato, soprattutto per l'assenza di buoni stranieri, secondo me non è mai stata così bassa. Non so cosa ne pensate voi, niente, vi ringrazio e complimenti. Grazie a lei, caro, è tuo parente. Sì, l'ho pagato, l'ho incontrato prima qua sotto, gli ho dato dei soldi. No, Udine ha giocato anche Larry Wright, tanto per dirne uno. Sì, beh, ne ha giocati più George Gervin, solo a Roma, sì, oppure sì. Adesso Mekadu, per ricordare un nome caro ai milanesi. No, però è vero, insomma. È vero, sì, è un po' più basso, ma soprattutto la sensazione che si ha è che Siena secondo me è una squadra straordinaria, però composta non da giocatori straordinari, da ottimi giocatori con una grandissima mentalità, allenata da un allenatore secondo me straordinario, gestita da un general manager che è il più bravo di tutti, lo sta dimostrando. Però la cosa preoccupante è che il gap non si lima, anzi mi viene in mente la grande Kinder di Messina. Primo anno vinceva bene, poi un po' più a fatica e poi sempre più a fatica, e lì aveva giocatori come Ginobili, Jaric, Rigodò, Abbio, Griffith, Smodis, Anderson, andiamo avanti. Sì, sì. In questo secondo me quella Kinder era più forte di questa Siena. Sì, questa Siena ha però che riesce a unire tutti i talenti, e la somma fa molto di più della somma algebrica dei talenti, se mi spiego. Sì, sì, sì. Però il problema è delle antagoniste, perché ogni anno invece di limare qualcosa, trovare un punto fermo, avvicinarsi, si allontanano. Certo. Perché ogni anno tutte, Roma, Milano, Bologna, cambiano tutto, e allora non crei mai un nucleo su cui costruire e fare solo piccole aggiunte per avvicinarti ai più forti. purtroppo la sensazione è un po' che tutti stiano aspettando che questo ciclo finisca. Ma tu quindi credi che invece di usare Siena come esempio da seguire, non parliamo di budget ma anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria del progetto, a questo punto le altre non lo seguono e quindi Siena non è più il problema, ma il problema sono le altre, chiaramente. Sì, la mia impressione è questa, cioè nel senso che comunque se tu hai uno più bravo in teoria cerca di imparare, di copiare qualcosa, perlomeno le cose migliori. La sensazione, ripeto, è un po' come dire vabbè, questi quanti anni hanno ancora? Uno? Va bene. Credo di sì. E poi dopo ci rigiochiamo tutti alla pari. Però così è un po' limitativo. Stando a quanto si dice. Tanto vedo Fanta Basket, vedo molti messaggi, c'è chi scrive di un Real Madrid interessato a Ginobili per l'anno prossimo. Dice, l'ho letto da qualche parte, non lo so. Stando a si dice, però, potrebbe essere l'ultimo anno della Siena di McIntyre, di Sato. È possibile. Domercant credo andrà via, credo arriverà Radori, anzi ne sono quasi certo. Insomma, Moss bisogna vedere, però Siena cambierà pelle. Io credo che possa essere sì, una cosa che si verificherà, le voci sono un po' queste. Io credo che giustamente questo nucleo è stato tenuto insieme ancora per provare l'ennesima scalata all'Eurolega, poi un po' per motivi di età, un po' per motivi, insomma, che prima o poi devi comunque continuare, ricominciare un ciclo, può darsi che insomma qualche grosso giocatore possa andare via, anche perché, ripeto, l'obiettivo grosso è l'Eurolega. Il campionato sembra che tutto sommato non abbiano grossi, non dovrebbero avere grossi problemi. Per cui se vuoi continuare la tua scalata all'Eurolega e con questo gruppo purtroppo scopri che ti manca sempre qualcosina, sì, in qualche modo devi toccare. E se devi toccare, probabilmente di toccare qualcosa di grosso. Sì. Palla spicchi. Stavamo deconcentrando, stavamo chiacchierando tra di noi in modo privato, ma continuiamo a farlo pubblicamente. 800 24 00 24, numero verde, parlavamo di Milano. Chiedo Davide, la più grande delusione di questa finale di Coppa Italia, non può che uscire il nome dell'Armani, per la quale onestamente la Coppa Italia doveva essere il primo obiettivo stagionale. Sì, a quel punto sì, è vero che ci sono i discorsi degli infortuni, Petravic è un giocatore importante, Finlay altrettanto, Hacker in recupero, però sì, onestamente a Milano ti aspetti qualcosa in più, perlomeno visto che hai l'occasione di magari avvicinarti, provare a giocarti un trofeo che comunque vale. E invece sì, è uscita male nel senso che comunque è uscita al primo turno, è vero contro la squadra di casa, è vero con tutto il pubblico presente, però insomma da Milano forse qualcosina in più era lecito aspettarsi. Ecco, tra l'altro Milano va ad affrontare Siena il prossimo impegno di campionato. Tu che partita ti aspetti? Proviamo ad aspettarci qualcosa di diverso dal solito, oppure troviamo la solita squadra? Guarda, che va al cospetto di una Siena che peraltro sarà anche un pelino arrabbiata, magari speriamo stanca, non per Siena ma per lo spettacolo. Diverso, cioè, anche no. Riusciamo, Fabio, a vedere qualcosa di diverso? Io credo che Milano possa attaccarsi a questo. L'ultima partita che Siena ha perso in Italia, e questo, anche questo secondo me fa riflettere, è stata proprio un anno fa. Il 2 marzo con la Fortitudo che poi è retrocessa di ritorno dalle Final Eight, dalla trasferta di Mosca, e poi c'è stata la partita a Bologna, però, per cui volendo Milano si può attaccare a questo. Le Final Eight sono state trasferta di Madrid, però giochi a Siena. E poi io insomma la vedo dura per Milano, perché comunque Siena potrà essere stanca, potrà essere delusa, tutto quello che vuoi, però questo gruppo ha dimostrato che è proprio benzina per la loro capacità di motivarsi in tutte queste situazioni, parlo di Siena. In più credo che insomma con Milano per Siena sia sempre una partita particolare, vogliano ribadire la loro superiorità. Io credo che insomma Milano possa andare là e provare a giocarsela, però sicuramente non debba aspettarsi minimamente un regalo da quegli altri. Non due punti in classifica, non credo proprio. Ma due punti se la vedo molto dura, ma soprattutto io credo debba arrivare lì sapendo che Siena è una bella ferita, ecco, più sì, che dire sarà stanca. Sì, anche sulla gestione di infortuni è vero, Milano, come è stato rimarcato, abbiamo aperto Super Basket sulle pagine interviste di Livio Prolli, che dice andremo avanti così anche l'anno prossimo, il progetto è questo, per vincere ci vogliono un po' di anni, resterà Buchi, resteranno diversi giocatori e fa i nomi, ve li leggo anche, Finlay Mordente, Maciuris, Viggiano, Petravicius, Rocche, Mancinelli, dice Livio Prolli, resteranno tutti sul mercato, faremo ritocchi, Hacker e Hall li valuteremo alla fine. Sì, avanti così, però insomma non decolla e non fa passi avanti il progetto di Milano, mi sembra in una perenne situazione di stallo, almeno questa è la mia preoccupata impressione. Sì, grossi passi avanti non sembra averne fatti, magari li fa a periodi, nel senso dove tu vedi ma forse qualcosa va meglio, soprattutto non è che Milano giochi male o che Milano sia, cioè, però è chiaro che ti aspetti di più da una società del genere, da una città come Milano che è abituata, come sentivamo dal tifoso prima, insomma, a vivere altre situazioni. Io credo sia importante la progettazione ormai nello sport moderno e la programmazione. Tenere un nucleo di giocatori può essere il primo passo importante, però anche all'interno di questi nucleo di giocatori ci devono essere già delle gerarchie, non so come dire. È vero, è bello avere 10 leader, è bello che tutti portino il loro mattone, però è indubitabile che nello sport, insomma, in uno sport di gruppo ci sia un nucleo, secondo me, all'interno di una squadra che anche dal punto di vista dell'etica del lavoro in allenamento, anche sulla mentalità, per esempio, facciamo un esempio, McIntyre, Stonrook, secondo me nel nucleo di Siena, il super nucleo, sono proprio quelli che tirano il gruppo, la Benetton che vinceva tutto, comunque che vinceva, mi viene in mente Pittis e Nicola, a Milano c'era Meneghin, D'Antoni, insomma dove tu, anche nuovo, arrivi, entri in quello spogliatoio e già respiri l'aria, capisci come funziona, cioè che se vuoi tu fai quello che fanno loro, ti adatti, ti adegui al loro sistema di lavoro, alla loro mentalità, alla loro serietà, alla loro capacità di essere vincenti. Se alzi la cresta, fai qualcosa, sei pigro, non t'alleni, cioè qualsiasi cosa viene espulsa automaticamente dal gruppo, non c'è bisogno nemmeno dell'intervento dell'allenatore, della società. È proprio una cosa che vivi nello spogliatoio. E secondo me questa è la cosa che fa la differenza, trovare un nucleo di giocatori con un determinato DNA che poi tirano dietro tutti gli altri. Se per stare a Milano, nel Milan che vinceva tutto, c'era Maldini, Baresi, Costa Curta. Esatto. Tu arrivavi lì e dicevano: ascolta, vieni, ti spiego. Spieghiamo delle cosine. Qua funziona così. Però non è che funziona così perché hanno deciso, funziona così perché così si vince. Questa è la cosa che fa la differenza. Torniamo agli ascoltatori, andiamo in provincia di Salerno adesso. Giovanni, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo innanzitutto farvi un ringraziamento perché alla vostra sensibilità, perché non ho ancora sentito dire, parlando del campionato, che se Caserta è seconda, insomma, vuol dire che è tutto dire, vuol dire che il livello magari è un poco basso, quindi vi ringrazio della sensibilità da questo punto di vista. Volevo poi dire un'altra cosa, era una battuta naturalmente, volevo poi dire un'altra cosa, diciamo che ovviamente quando si parla di tanti giocatori, consentite, quelli che sono stati in Italia si fanno sempre, insomma, diciamo gli stessi nomi. Io voglio solo dire che quello che ho visto fare l'anno dello scudetto al nostro Shackleford, io non l'ho visto fare più a nessuno. Ma vede che ne troviamo un sacco, nel passato di grandi giocatori. Che ancora oggi non riusciamo a dimenticare. No, la domanda era questa, volevo sapere, al di là di quello che diciamo succede in Italia rispetto a Siena, che è assolutamente giusto, insomma, probabilmente gli altri hanno perso una partita, quest'anno forse non perderà neanche quella. Volevo sapere come mai, visto che sono dei geni, lo dico in senso ironico, in Europa è quello che succede a loro, cioè anziché andare in avanti continuano ad andare indietro, insomma, visto che adesso addirittura la qualificazione ai quarti è fortissima. Cosa ne sbagliano quando si tratta poi di lottare per l'Eurolega? Grazie a lei Giovanni, che è stato molto cattivo credo con la sua Caserta, perché esatto, insomma, forse, ha fatto un'autocritica molto feroce. La Caserta seconda con pieno merito, semmai vanno sottolineati i demeriti di quelli che dovevano essere al posto di Caserta e non ci sono riusciti, e anzi qui voglio sottolineare per l'ennesima volta quello che sta facendo col De Bella a Caserta, la squadra che ha costruito con i mezzi che aveva. Costruita molto bene, allenata molto bene da Pino Sacripante, gioca bene, ecco, se vogliamo, nelle Final Eight per la prima volta in stagione che aveva pressione, ha un po' steccato, perché insomma un conto è essere insomma sempre sull'onda dell'entusiasmo, quando hai qualcosa da perdere cambia qualcosa, però Caserta è seconda strameritatamente, giocando anche una buonissima pallacanestro. Quanto a Siena, cosa ne manca per vincere in Europa? Ne manca che in Europa purtroppo giochi contro Barcellona, Real Madrid, Efes, Maccabi, Panathinaikos, Olympiakos, che hanno budget anche più alti, che hanno squadre con Vasquez, con Navarro, con Jasikiewicz, cioè, i primi nomi che ci vengono in mente purtroppo sono sempre gli stessi, è vero. Possiamo farne mille. E in più, giustamente Siena è in questa situazione dove già l'anno scorso ovviamente si è accorta che mancava qualcosa, però per aggiungere quel qualcosa devi cambiare, devi privarti di qualcuno di sostanziale. Come fai? Come fai se un gruppo del genere... provare a smembrarlo perché forse trovi qualcosa di meglio, è dura, per cui ci provi con questo, arrivi, e poi è anche questione di episodi, perché anche ieri magari perdi di 6, di 5, certo, e vai avanti, sono tante piccole cose, cioè praticamente Siena gioca al livello che le compete, con le più forti alla pari, e poi lì è veramente questione di dettagli. Sì, ma anche qui sì è un discorso di budget. Anche di budget, ma poi di dettagli, giochi con le squadre tutte più o meno forti uguali, chi più chi meno. qualcuno spende di più addirittura, certo, questo poi è un altro discorso, e però lì poi è proprio una questione di dettagli, allora una partita si decide per dettagli, l'importante è giocarsela, poi vincere cambia molto. Poi apro e chiudo la parentesi, ho fatto molto bene a citare Shackelford, non lo ricordo, davvero un giocatore pazzesco. Ti ha fatto male, no? Ha fatto abbastanza male. Sì, no, io anche giocavo a Cantù quell'anno, ho giocato anche abbastanza bene contro Caserta, però lui era un giocatore, non so, 10 anni avanti. Shackelford, Tellis Frank, insomma, in ogni posto c'era. Ho iniziato a Torino, citava prima Coach Peters, Scott May, Mike Bentham, insomma, giocatori pazzeschi. Mi viene solo questo. Fabiano Pesaro. Buongiorno. E dico, andiamo avanti, Chicciano il Darrendei, che giocatore. Sì, così però mi rovinate. Magone, eh? Mi rovinate perché il succo dell'intervento era proprio quello. Adesso non tanto Chicianovic, Darrendei, Darwin Cook, eccetera, eccetera. Però io sono stato abbonato per 25 anni a Scavolini, anche perché quella volta se volevi vedere le partite i biglietti non esistevano. Certo. Però ecco, c'era fondamentalmente il discorso del gruppo che era legato, se non altro, diciamo, il nocciolo era gli italiani, erano Gracis, era Magnifico, era Deo Costa, erano Zampolini. Quando si andava a giocare con Bologna sapevi che c'era Buonamico, c'era Villalta, Milano c'era Meneghin. Ecco, oggi secondo me viene a mancare molto questo, cioè le squadre si evolvono troppo rapidamente tra un anno all'altro, tutti questi stranieri, cioè il discorso della gestione di un gruppo, di creare un gruppo, di creare un affiatamento con i tifosi, secondo me è diventata una cosa molto difficile. Non so se siete d'accordo con me. Io credo che questa sia la base di partenza del problema con la P maiuscola. Insomma. Sì. Porte girevoli, troppe. Adesso è una situazione in cui, ma sia anche da parte del giocatore per primo, ma anche le società, prendi qualcuno, va bene, bene, non va bene, dopo un mese sei già lì, vabbè, allora io vado via. Una volta non potevi andare via, devi stare lì e dire, cioè, io se voglio giocare devo provarci, cioè devo... Anche se pensavi che l'allenatore non ti facesse giocare, non era al posto giusto, alla fine non c'hai scelta, stavi lì e provavi a fare il tuo meglio. Adesso è anche molto facile andare via, e come anche molto facile, come dire, rinnegare se stessi, perché dici, io parto con un progetto di un certo tipo, dopo due mesi perdo tre partite, allora salta tutto e ribaltiamo tutto. In realtà ci vuole la capacità del grande dirigente, secondo me anche questa, cercare di fare delle scelte più giuste possibile e poi portarle avanti. Non basta perderne due, non basta vincerne cinque, insomma, ci vuole pazienza, ci vuole capacità di programmare, mi sembra che, scusa, nello sport, insomma, nella pallacanestro italiana sia abbastanza raro. Tra l'altro la classe dirigenziale non è che sia cresciuta di pari passo nel corso degli anni. Probabilmente, se abbiamo fatto dei nomi anche prima, ne parlavamo a microfoni spenti, di grandi dirigenti del passato, adesso non è che ne abbiamo trovati tanti, qualcosa vorrà pur dire. Sì, la competenza non la compri. No, decisamente no. Poi non è solo competenza tecnica, è la capacità di gestire un gruppo, la capacità di stimolare, di... lavorare con questo gruppo. Io credo che sia anche questo, con il fatto che comunque non ci sia tutto sto denaro in cui si può nuotare. I primi tagli forse sono stati fatti proprio lì, e questo è un errore. Cioè, tagli magari il general manager, tagli l'osservatore, lo scout. Cioè, secondo me una società di altissimo livello adesso non può prescindere da un buon staff dirigenziale, anche con proprio a livello di osservatori, di scout, di gente che va in, soprattutto se non hai tanti soldi, che va in giro a vedere i giocatori che possono essere interessanti, che costano poco, proprio perché, insomma, non hai tanto budget, però devi avere, insomma, la conoscenza del mercato. Palla spicchi. Dino, buongiorno. Buongiorno. Intanto mi scuso, ma mi sono collegato che la trasmissione era già cominciata, ho sentito che c'è un ex giocatore, Davide, ma non so chi sia. Davide quel... Pessina, ma come? No, ma grande, grandissimo, valdostano. Esatto. Quante, io sono un vecchio tifoso ovviamente della Berloni, quindi si può dire che l'ho visto nascere, Vidili, Pessina, rimpiango veramente quegli anni lì. E oggi avete fatto dei nomi, insomma, dalla Crimuccia, devo dire che sì, anche il Fuori a Caserta, tantissimi bei nomi, ma qua a Torino, insomma, non siamo stati da meno con i vari May, Bentham, per rimanere agli stranieri, e poi, insomma, gli italiani ne abbiamo avuti. Vecchiato, io volevo... della Valle, se vuoi ne faccio degli altri, Sacchetti, Caglieri, no, Cagliari, certo, ne abbiamo avuti tantissimi, Ricky Morandotti, Pessina, insomma, voglio dire, insomma, gente che ha fatto veramente, insomma, ha scritto delle belle pagine. Al di là della nostalgia? Al di là della nostalgia, io volevo avere insomma il vostro parere su Biella. Cosa può fare Biella, dove può arrivare, o se ho appena sentito che a Radori forse il prossimo anno Siena. Insomma ci sono le voci, appunto Siena, e quindi quali possono essere le prospettive di Biella? La lascio a un giocatore di Biella. Esatto, come già che passavo ho giocato anche lì. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, importante per Torino l'anno prossimo l'assegnazione Final Four di Eurolega, anche perché come impianti, come dire, rimasti dalle Olimpiadi, sicuramente all'avanguardia in Italia. Poi Torino è una città comunque che sotto la cenere, insomma, è cova della passione per la pallacanestro. Tornando a Biella, Biella è un momento delicato. Biella è un momento delicato perché sta facendo molta fatica, ha avuto problemi di infortuni, ha avuto un buon inizio, poi si è persa, adesso mi sembra una condizione anche psicologica non semplicissima. Io credo che possa benissimo riprendersi e far sempre molto bene. E tornando al discorso che facevamo prima, Siena occupa ogni pensiero. Biella però è una delle società invece che sanno programmare, sanno lavorare bene. È chiaro che col budget che hanno non possono forse ambire ancora a livelli massimi, però l'anno scorso è arrivata in semifinale con pieno merito ed è una società che è sempre cresciuta, usando una frase fatta molto brutta, diciamo, non facendo mai il passo più lungo della gamba. Una società seria, con gente competente, con un ambiente perfetto per lavorare, per crescere, per cui io credo che sia una delle realtà più solide del nostro campionato. In questo momento ha difficoltà, però io credo che abbia tutto per riuscire a uscirne. Se hai le potenzialità per trattenere Gistegger-Gerebko e poi andando prima ancora altri, poi Antonio Granger, Joseph Blair, insomma ne hanno avuti tanti. Siamo alla Marcord. Esatto, siamo alla Marcord, c'è la lacrimuccia. Non abbiamo neanche l'album Panini, penso. No, veramente. Il libretto. C'è un signore che forse conosci. Flavio Tranquillo, buongiorno. Conosco. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, grazie, voi? Non c'è male, anche se si era vinceva era meglio, stavamo un po' meglio. Flavio, volevo tornare invece su uno dei temi che abbiamo trattato con te per sentire la tua opinione. La fine dell'epopea Panathinaikos, come se il Barcellona di Messi finisse fuori con lo Stoccarda in Champions League, forse anche qualcosa di più. Sì, forse qualcosa di più, almeno in questa maniera. Se fosse uscito all'ultima giornata con un incrocio di risultati è una cosa, uscire con 4 sconfitte nelle prime 4 è veramente al di là e al di fuori di ogni pronostico. Direi che non esiste la situazione o il sistema che non abbia un'altra faccia della medaglia. Il sistema Obradovic è favoloso, strepitoso, straordinario. Poi quando un gruppo del genere scoppia e i pezzi finiscono molto molto lontano dal luogo dell'esplosione. Questa mi sembra la chiave di lettura. Perché comunque è la fine di una dinastia, forse. Beh, la fine di un gruppo, è la fine quantomeno. Di questo gruppo. È la fine di questo gruppo, è chiaro che devono cambiare, e poi questo non significa che bisogna buttare tutta una serie di bambini con l'acqua che è decisamente un po' torbida. Sì, la sconfitta di Siena invece è presto per leggerla come la fine di un gruppo, però può essere un segnale importante forse per il futuro. Guarda, mi è sembrata una partita veramente tra due squadre oltre il lumicino delle energie, quindi non la prenderei come simbolo di niente, se non del momento di enorme difficoltà a livello di energie, di fisico, di testa, di due squadre che non hanno grande talento atletico, genericamente parlando, non hanno una situazione così consolidata, una il Real, l'altra forse troppo consolidata, perché chiaramente siamo in una fase terminale il ciclo di vita del prodotto Siena. Non per questo secondo me Siena è fuori, è finita la stagione, è finito il ciclo, è finito tutto, a meno che non si convincano loro di questo. La situazione di classifica e il fatto che comunque in queste condizioni sono stati davanti per 30 se non per 35 minuti, al di là del punteggio sono stati davanti nella sostanza, secondo me non rende impossibile il fatto di vincere magari anche due partite, e soprattutto quello è un girone ancora completamente in piedi. Se vinci prendi o Partizan o Marussi, non male. Non male, no. Davide, invece abbiamo parlato moltissimo di Siena, abbiamo parlato di Yuri Reyes, però il Real Madrid di Messina, dal punto di vista del progetto, come ti sembra? Del stato di avanzamento dei lavori? Mi sembra lavori in corso. Chiaramente poi un allenatore come Messina non è che cambia poco, quando arriva sicuramente, diciamo, rivoluziona, è detta le sue regole, ci vuole un po' di tempo per andargli dietro. Mi sembra che stiano correggendo anche in corso alcune cose, per esempio l'arrivo di Jaric può essere stato importante, per cui io credo che insomma siamo all'inizio di un progetto che penso possa essere di qualche anno, e soprattutto mi aspetto che presto, non so quanto presto, ma presto diventerà uno dei club non dominanti, ma che lottano davvero fino in fondo. Eh sì, perché con Ettore Messina non va diversamente. Forse Carlo, non era quest'anno che ci si aspettava, certo, che facesse già chissà quali grandissimi risultati, almeno dal punto di vista europeo, credo. Quest'anno siamo agli scavi, credo che al tetto ci sarei entro tre stagioni forse, Flavio. Decisamente questa è una stagione interlocutoria, nel senso che avrebbero avuto le possibilità di budget per fare immediatamente una squadra per vincere l'Eurolega, ma non erano proprio disponibili materialmente i giocatori per provare a farlo, hanno preso una strada allora diversa, hanno cercato di puntare più sulla quantità che sulla qualità. Il problema è che molti di quei giocatori sono nella fase terminale di ciclo di vita del prodotto, molti di quelli importanti. Domani credo che ci sia la possibilità di cambiare molto. È molto significativo il fatto che abbiano preso finora due scopole col Barcellona, perché poi onestamente è bello parlare di programmazione, bello parlare di tutto, però è anche difficile in Spagna andare oltre il proprio naso se ti chiami Real Madrid o Barcellona, e il naso sono le sfide col Barcellona, quindi quello mi sembra lo scoglio. Per il resto questa squadra sta facendo quello che ha, che non è necessariamente tantissimo. Flavio, ci sentiamo domenica sera. Sarà fatto. Grazie. Grazie Flavio Tranquillo. Chiudiamo con Davide Pessina. Abbiamo ancora un minuto e mezzo per un ascoltatore, l'ultimo di oggi. Aaron, provincia di Frosinone. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io vivo nella provincia di Frosinone, ma sono originario di Torino. E volevo chiedere a Pessina se secondo lui a Torino c'è ancora possibilità per il basket, visto che ormai sembra morto da tempo. Io credo di sì, ripeto, secondo me passione ce n'è, gli impianti sono tra i migliori in Italia, ogni tanto ciclicamente si sente che magari possa essere trasferita a Biella, piuttosto che invece sentivo che Casale magari in caso fosse promosso andrebbe a giocare a Torino. Io credo che ci vorrebbe qualcuno che ha voglia di anche lì stiamo parlando di questo, di progettare, di programmare, di aver pazienza, di riportare una squadra a Torino, da lì penso che possa crescere. Ripeto, la passione sentita. Mi sembra che ci sia, anche perché il fatto che comunque hanno fatto le Final Eight di Eurocup, insomma, sì. Torino il pubblico più o meno c'era, faranno le finali di Eurolega, io credo che la gente risponderà. Insomma, la fame c'è, la voglia c'è. Gli impianti ci sono. Gli impianti adesso sono meravigliosi. Credo che ci voglia qualcuno che si metta lì e tiri fuori il libretto degli assegni e in qualche modo investa un po', ecco. Dunque, adesso siamo in chiusura. Allora, c'è Flavio Suardi che mi intima di ricordare una cosa su Facebook, però lascio ricordare totalmente a lui, perché confesso la mia totale incompetenza. No, è semplicemente consegno che oltre al numero di SMS e il numero verde per le telefonate, i nostri ascoltatori ci possono raggiungere anche tramite Facebook, c'è il gruppo di Palla Spicchi, dove insomma possiamo avere anche qui un feedback con loro, tutto qui insomma. Un giorno mi spieghi anche come si fa. Assolutamente sì. Sfidando le leggi della mia ignoranza. Grazie Davide Pessina. Grazie. Senti, a voi. Non fate fare tutta sta corte. No, quando volete, io se volete, un sacco di bene. Quando volete, ma sono incatenate un po' di cose, concatenate delle disgrazie. Grazie davvero Davide Grazie Pessina. Grazie a voi. Flavio Suardi, a venerdì prossimo. Sanida e Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 6 e ovviamente partiremo da Italia-Scozia di rugby che si gioca domani alle 2:30. Domani.